for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations fed the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Bene, come da richiesta, abbiamo fatto sentire per intero Disorder, che andava ad aprire Unknown Pleasures dei Joy Division, sigla anche dell'omonimo programma che va in onda da adesso sino alle 23 circa sulle frequenze appunto di Radio Onda Rossa 87.9 sul sito internet www.ondarossa.info. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito della radio e anche sui i miei riferimenti personali e su prove tecniche di trasmissione / Disorder come pagina Facebook ci sarà chiaramente la registrazione di questo programma con la playlist annessa. Ricordo il radio abbonamento che è stato prolungato di un po', quindi gli interessati che vogliono partecipare a questa campagna di finanziamento di Radio Onda Rossa tramite abbonamento possono andare sul sito della radio stessa, cliccare sul banner e scegliere la modalità più adatta. Ricordiamo 30 euro per 1000 persone, per 1000 ascoltatori, che è una base minima per permettere una vita dignitosa a questa emittente completamente autogestita. Allora cominciamo con salutare Maya e Nicola Locci, Stigmate dalla Sardegna, Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta, Lucia Cagliazza come Lupsi da Udine. Isetual, dalle parti di Milano, Malvina qui a Roma come il medico della peste. Elisa Panbianchi di 3 Plus Dead, che ascolteremo più avanti. Antonio Zoviet, Omicidio, di cui è uscito un ultimo lavoro che presto ascolteremo qui da queste parti su Prove Tecniche di Trasmissione. Eloquence Recycle di H501L, Flavio Rivabella di DB Pit, anche lui alle prese con delle nuove uscite che presto ci ascolteremo qui a Disorder. Allora, ho aperto con Disorder per la sua interezza, per un motivo semplicissimo, molto intuibile, perché il 18 maggio di esattamente 40 anni fa moriva Ian Curtis, si toglieva la vita come tutti sapranno, e quindi per quanto mi riguarda il maggio è sempre un po' dedicato, ahimè, a degli omaggi per artisti scomparsi, appunto Ian Curtis, recentemente Florian Schneider, che ricorderemo anche più avanti, Marco Corbelli, che lo stiamo ricordando con Prove Tecniche di Trasmissione. E quindi, tornando al nostro Ian Curtis dei Joy Division, ci andremo ad ascoltare un paio di tracce. Tracce leggermente meno, come dire, non dico note, ma sicuramente meno sentite rispetto a dei classiconi. Per cui ci ascoltiamo una delle ultime composizioni dei Joy Division, ossia Atmosphere, qui estratta da Substance, una delle tantissime compilation per quanto riguarda i Joy Division. Whoa. that you care. Don't walk away in silence. Don't walk away. We ready, 5-0-1-2-5, go! I was there in the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around. Allora, piccolo omaggio ordunque a Ian Curtis di Joy Division, ricordo scomparso 40 anni fa. E ho scelto un paio di brani tra i miei preferiti, io che sono di uno di quelli, come tanti, che ha mangiato pane Joy Division, è sempre un po' duro a scegliere, ma Atmosphere e I Remember Nothing sono tra le mie preferite, forse tra i brani più sofferti di questo progetto e di questo cantante storico. Intanto vado a salutare Dario Ricchi di Progetto No Name, altra realtà sperimentale toscana, come toscano è Gianluca Becuzzi, pezzo di storia della sperimentazione italiana. Salutiamo Ernesto e Giuliana. E dunque questo piccolo omaggio a Ian Curtis, Joy Division, 40 anni fa. Io peraltro conobbi Unknown Pleasure, primo lavoro, l'anno successivo del suicidio, nell'81, grazie a un mio amico che mi regalò una cassettina di quelle graficamente perfette, con tanto di copertina. Io non conoscevo il personaggio, mi fu presentato da questa persona, io che ero all'inizio della New Wave, per cui Talking Heads, Divo, i Cure, ma The Joy Division conoscevo poco, e quindi fortunatamente nel lontano 81 ebbi la fortuna di essere poi messo in questo grande mondo del gothic. Bene, dunque Joy Division ce li siamo ascoltati, rimaniamo su più o meno su queste atmosfere, torniamo ai giorni nostri, anche qui, anche se qui viriamo un po' più verso la cold wave, siamo a Roma. Siamo a Roma con 3 Plus Dead, come avevo accennato all'inizio trasmissione, una interessantissima realtà romana. Questo è il loro esordio che esce attraverso un'etichetta svizzera di cui adesso non mi ricordo il nome, qui è anche difficile trovarlo peraltro, vabbè, ma tanto ripareremo al più presto. Ah, Swiss Dark Knight, giusto. Dunque, dicevo, Roberto Ruggeri, Elisa Pambianchi e Giuseppe Marino, questi sono i tre personaggi che compongono 3 Plus Dead, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare altri due passaggi da questo loro lavoro di esordio, ossia Engizia e The Thing That You Can Love. fresca novità, una validissima novità qui a Roma per quanto riguarda sempre l'alveo della dark wave, della cold wave, del gothic, tanto per prenderla un po' alla larga. Si chiamano Three Plus Dead, questo trio romano. Le dico di nuovo, c'è Roberto Ruggeri, chitarra, sintetizzatori e arrangiamenti, la bella voce di Elisa Pambianchi, che fa anche i testi, e Giuseppe Marino al basso. E vedo che si sono anche circondati di personaggi noti e abili sia nel trattare la musica, come Luciano Lamanna, personaggio che in genere si muove in ambito più elettronico. E c'è anche il ringraziamento a Simona Ferrucci.